Ed era a minimo me. Ma si è dimenticato. Il caffè non andato il fuoco, si è dimenticato. E tu sempre prendi il caffè. Allora, come sta cucina lì? No, quando dici di capo la cosa è così. E mai fatto io devo pigliare una radio e portare a mettere a dretto, capito? Mi faccio una brolunga, la vai a mettere a bomba in cameretta, la radio, che no mi va troppo freddo, me ne prendo una e me la porto dentro, capito? E invece non ti conviene pigliarti una macchinetta come te chi sei va giù io? Così quando lo devi va veloce, lo vai veloce e basta. Ma non gli piace a lì quel caffè, gli piace la caffettiera. Ma tu ti abili solo a te, cosa avete ragazzi? Ma infatti, vabbè io non è che ne bevo tanto caffè, oggi ne ho preso solo due, uno stamattina e uno poco fa, perché fa male, vedo troppo caffè, ti fa di male. Non te fumare, vai, tu chi sei, tu? Se mi sono ridendo, la faccia mia. E qua? Dottanari. E rimane una tesi, capito? Però non lo tolgo quel fusione dal mulinello della canna calamari, perché se incuci perdi tutto, devi tagliare. E a te pure vado in un fusio anch'io, fammi in tutte e due le canne. Però gli ho fatto lo scioccolino di lenta, dove attacco la sottanara, è di lenta. E hai compreso, ma non è rubato la rete e attacchi la tortanara. Ma la bella secondo cosa è tiri e faccia era bella la tortanara. E si incocci la bella in qualsiasi modo. Invece bella si rubusi non è la tortanara, si non può lo sciocchi di lenta. Ho capito già. E che pezza ti hai messo? Ehi, non mi rammento, chissà Roma, la Giubbuzzo, chissà Polo Carbon, chissà Roma. E chi sa la Giubbuzzo, la Gorilla. Non mi rammento che ammaccai, grazie la posso vedere. Non mi ricordo che non ne usa solo lenza. Ehi, a chi cazzo rincocci poco poco, un cazzo deve tagliare tutto, mi Giubbuzzo. Hanno l'apporto, manco tutto Renzo e buco, se manco un 0,30, 35 andava. Sì, lo so. Infatti il fusion è anche un po' coso perché non affonda, amico. Io pure mi pare che ne rugavo. Il fusion non affonda, rimane a galla, capita che anda a farazzi. Ui. Sì, infatti diventi, secondo me. Adesso vediamo, lo proviamo, se non andava bene, rugino, un gatto è. A chi tutti quei cani unghi su cazzo di rufugio? Temporale! No, io mi rugavo una tarina, no. Tanto se qui ci perdi tutto, è un casino. In ogni caso vorrei tappanare più in batte. Se si cucciano le perdi lo stesso. Invece ho quella senza essere piombate col pallino. Ma solo ogni voce vedi a Renza, il pallino. Se manco Renza da 30, va bene. Io usavo sempre il 30 a calamare. E non ha stato pure calamare maturi, mai fasciata mi sei. Mai. 30 buono chiaramente, no, un 30 gorilla. Buonasera, successo! Buonasera, signor Fra. Col cavolo si rompe. Poi mi raccavo la muragione, senza coppe, senza nulla, uragana, a tirar giù la vita sopra. Cosa ti è successo, signor Fra? Buonasera. Mica è entrato, mi. Signor Tore è entrato, mi. Ciao Tore, buonasera, ben entrato. Sì, buonasera anche a voi, alla tutta la ruota. Ci gira bene. La ruota so che è Natalina, c'era Antonio. Poi c'era Tonino che è passato in quel RT sicuramente, e anche Antonio. Mi sono dimenticato, dice, ciao Antonio, buon quel RT, comunque non ti ho salutato, perché quando sono entrato non ci eri già. Ok, vai tu. Fra, cosa ti è successo? Ti sei truccato la canna? Ah, vi ho messo il fusio nella canna calamari, capito? Una canna da spinte. Ma non lo voglio togliere perché non va bene. Ah, non va bene no. Non ci voleva quello lì. Ecco cos'è. No, non va bene perché la totanara galleggia col fusio. Ma gliel'ho provato io. Sì, galleggia sì. Un coso dovresti usare un piccolo piombo, piccolino. Ma ne rubavo, mi ci metto 0,30 e andava bene. 0,30, mi rubi di Roma a pesce, rubare amaro. Infatti è così. Il buon Rubusio, da buio si incuccia, è un casino, vedi tanto bene. Fai tanto buio, perché secondo me ti dici faccio buio un murinello. Infatti. Secondo come ti dice, si incuccia e faccio un murinello. Già, questi murinelli che usano sono il 2005 o il 3000, che ideale è proprio per fare quel tipo di pesca. Se tutto buono con Fugio, a parte che il Fugio c'ha un altro problema, che ti arriga tutti gli anelli della canna a pesca, te la intacca proprio come esce, come lanci, perché scalda quando esce. Ti credo, ti scaldi, secondo che le stai usando anche. Vabbè, con la canna che ti ho dato io non va bene a fare calamari. Quella va bene a spigole, no, otto, è troppo bizzante per fare salmeca. Quella va bene a spigole, capito? Quella vuol vivo, la lancio, la lasci stare. Sì, no, io c'avevo un'altra canna, c'avevo per i calamari. E mi funzionava così bene. E davo, va bene, l'adoperavo nel gommone, l'adoperavo. E pescavo benissimo. E ci vogliono quelle canne da spinghi, col mulinello piccolo. Perché il mulinello grande non va bene. No, infatti c'avevo il mulinello piccolo io, attaccato a questa canna qua. E la usavo nel gommone, la usavo. Ma tu vedi, dove vedi cosa va zia? Fa già 3-4 a Ravuccia, attaccavo dei due gozzi, 3-4 a Ravuccia li vediamo. E tre a tonare in filo, ho capito, col piombo fisso sotto, sì. Capito, tiravo e camminavo appena mi, da solo, con lo stesso attaccato a Ravuccia, andavo dritto. Beh, sì, riprende Natali, capito Natali, io mi rubavo in maculanezza, poi non va bene, no? A parte che non va bene per una cosa, lanci di meno e affondare ci mette un bel. E infatti io te l'ho detto che non affonda, bisogna che fa rullatore a figlia mira a chiudi chissà nonnaggio. La gorilla ci vuole, no d'adore, conviene pigliarla a pesce nautico e c'è lo sconto, capito? Che d'adore te la fate pagare a 20 euro. Ah, la sorte. E vabbè, andiamo in fare allora, bravo. Ne pigliando una matassa a 200 metri, tanto mi state a 200 metri un mulinello, non è ne buoni di più, no, a voglia. E io ne ho due mulinelli, perché ne ho due canne da pesca per i calamari. Tu cosa vuoi sapere? Certo, tu sei mio marito, giusto? E allora comportati da parte. Ma arregami chi su nevi o chi è pronticeri qualcuna? Me ne sono dimenticato. Se lo devi abbassare me ne sono dopo dimenticato, è una cosa incredibile. Curamente di bidiallo chi su nevi e me ne sono messi tu da gambo. Mi ricordo una vetta passata chi ci vedessi a bacia la Grecia, ma ti immaginati minorie, ma bisogna accogliere una vetta russa che sono più sottile. Se mi rammento di rubarsi l'altro giorno sono passato e me ne sono dimenticato di portartelo. Riprendi tu Natali, saccaimo meglio da voi lanci, soffermi. Sì, io so quella giù vedi anche una grossa e una vina in agio. Vediamo di rispondersi. Una è un fiada, una è il nostro grande affare che si è mai pagato. A chi una mi sia un fiada l'anca? L'altra non ti sia un fiada, no? No, una Zuru, la sinistra mi sia un fiada. Tu mandando sono andato a fare commissioni, sono andato e quando ne sono durato papio duro la novembre non sono d'astro. Chi c'è l'umidità ma era tutti. Guarda quella lenta c'è, anche la lecca tro, quella buona, Natali sono andato a dove. Andiamo in un dia di tutto. E mi piglio la 0,30. 0,30 ci vuole, allora. Lenza buona ci vuole, in bobina. E tutti che fanno che si lenzi di ginesi che non si vede. Oh, non si vede, andare vero con la testa. Meglio quella là. E infatti mi riempio tutti e due i mulinelli e così le tengo pronte all'uso. Quando fai una di come ti ritocca, andiamo e picchiamo. Beh, io adesso mi devo tutti le perfusioni con quel mulinello e ci metto, o ci metto la fende, la femmer, come lenza che è buona con la salmonata. Se ti butto il gatto alla fusione in tutti e due, che e gli ho fatto lo cioccolito di lenza. Da io anni rugavo a chi lo sapevo che non affondava io. Ah, una volta ti hai imbubilato un mulinello, cosa fa cucchio? Che lenza a cucchio? Ma ne era più cavata chi sarà, ma era vini vini, ero 22 mi pare che era, o 16, cosa cazzo te ne pare? Naturalmente chi si sarà con il gatto, come ti toccava ne a rocca il gatto si faceva la lenza. Non era chi c'era la lenza. Ma com'è che la lenza buona? Dai tu. No, se non si fa nulla. E meglio che si era a 0,30, a manco chi sa Reggio. Ah, sono se buone chi da avrà, chi si aggiunta a Dio di chi si agganna parenza. Meglio che faccio domani. Ma è troppo grossa tu. Non va bene, capito? Su un mulinello piccolo ce ne sta poco, se no andrebbe di lusso. Ah, ma ci metto un 35, un 30, va bene per il calamaretto. Ha già sempre trattato un 30 io, ma i problemi, 30 buono chiaramente, non un 30 di ginesi che non si fa nulla, no? No, che si pacca, che sa di ginesi non si fa un cazzo. Mi dai la 22 buono, però mi si pacca la romantezza che era troppo vini. Cazzo. Ci vuole 0,30. Il problema tu la lenza va a provarla, devi fare un uovo e tirarsi, si spacca vuol dire che non si. Sì, si spacca, e conviene comprare lenza buona, conviene comprare, ma cos'è, i tratti chi se non si fascia. Ma che secondo che calamaro si attacca, se la lenza non si vede direi fascia, basta un nodo domi, e spacca subito. Infatti basta un nodo, poi si spacca subito. Ma facevano quella lenza, adesso non so se esiste più quella della Carson. C'era la Carson, poi c'era la Lasso, da cui c'era la Dominator, che chissà la Dominator era una lenza a vivo, il 0,30 Lasso, niente. Oppure la Mustang, era buona stesso la Mustang. Ah, la Mustang mi sembra che ci sia ancora, quella di... Aspetta, non l'avevo trovata io. No, non c'è più il negozio quello lì. Io non c'è più, lì l'avevo trovata. No, la Mustang mi pare che non la fanno più, non l'ho più visto io in circolazione quella lì. E ogni negozio fa le lenze sue buone, cioè. Io vi stavo servendo l'ultima volta, mi sono servito a quello dei punti. E ora già c'è la lenza buona, ma ce la fate pure bagare. Vabbè, però sono lenze buone, perché la paghi 12 euro, 13 euro, però è buona, è come lenza e vanno bene, capito? Ma pure che c'è per i ginesi, è buono, 0,30, tirano a te, se io vi raggio in occhi, la drattavo e funziona, è bobina. Fra, ma solo ci fraggeggiano subito, chissi, e dratti un paio di volte da voi, che andano a trattarli, che c'è un po' di tempo, che andano a trattarli non si viene giù. Sì, è perché la devi sciacquare, detto, per forza, il mulinello quando lui si fanno sciacquare le lenze, perché la salsiccia ne marcisce la lenza, il filo te lo marcisce. Io la vado a pescare quando rientro, me li pulisco sempre i mulinelli, canne i mulinelli, sempre. E anch'io le pulisco sempre, infatti io quella che ho, la lenza che ho nella canna, quella che ho da coso, quella è sempre buona, non si è fraticata mai per niente, comprata da Tore, come sta fare cioccolato delle punti. Infatti, ma io non la camera lancia, non a te ci faccio un russio. Io non me ne metto come di cazzo di giamma. Non so se ci ho messo quella della lenza che ho data a quella canna che ho data a te, mi pare già giù molto di chissà. E là che si è buona la lenza. Adesso che cominciano le spigole, quella lì la uso io. Col vivo, col buginetto vivo, con due armi, una è testa e una è cola. Era portando andare, un galleggiante e tu bavettare. Sì, infatti, non così fu. Vuole così, col galleggiante. E invece che io me ne cerchi un'altra di canna, perché quella da spiaggia non va bene. No, già va bene lo stesso quella da surf casting. Ma dietro metto il palloncino addirittura. Questo è il palloncino, ma il palloncino minoreggio. Col vivo, capito. Ehi, oggi compreso. Ma no, io di quelli non ne ho più. Devo consumarti, adesso mi devo comprare un po' di attrezzatura. Vabbè, l'attrezzatura per il calamare già ce l'ho. E un po' di attrezzatura di ami e coso e piombi devo prendere. E più la borsa nuova, contenitore, come te lo vuoi chiamare. Ah, quella borsa scopartimenti. E quelle vanno bene, quelle rigide. E da vedi va più io, che si usava una buccia. Ma non mi piace più. Non so che me la compro quella che ho visto da Decathlon. Metti, no, ma quelle rigide. Sì, si rigidi di una buccia. Chi si verani? Tant'anni fa. L'ho capito, guarda, quella piccola o quella grande, perché ce l'ho io una di quelle. Quelle lì c'ho, ma non servono più. Ci sono passato innanzi con i birri per salire sola al tavolo. Riprende la tariffa. Sì, dai, io vi ascolto che è pronto la papa qua, di umiliare i bacchini. Vabbè, ci sentiamo dopo, vi ascolto, se ci siete dopo già è. Andate, dai, buona carica allora, ci sentiamo dopo, capito dopo. Il discorso è sempre visto. No, posso ripresca già ne ho, ne ho tre. No, io ce n'ho una da spiaggia, una che usavo nel gommone, che è più piccolina. E poi dovrei avere qualche altro, però è grossa come te canna. E no, non va bene, e non ne ho altro. Io quando la becca va giù, allora va giù, lasci mano. Poi c'ho due talcan evoluzione, da poi va giù una miscela mediterranea, poi cosa va? Già poi va giù una cra miscela, e mi va giù una marea che nella becca, una daiva in tre pezzi, poi c'ho la cartoppea della Trabucco, di quella ne ho due, e non le ho ancora usate. Niente. Ma ce l'hai qualcuna allora, la voglia. Sì, vabbè, ma che c'è che fozzo io, faccio mi sento troppo. Dopo di Murinelli va giù tutti i muri, tutta la serie dall'Elbe che dal 5000 al 4500, tutti dalla Daiva. Ah, io ne ho una, quella che usavo nel gommone, che è con mulinello piccolo, e quella da spiaggia, cioè, basta. Io faccio chissà calamare, mi va con un mulinello piccolo, c'ho un Michelin, un 3000, e poi c'ho uno Shimano Sierra da 2005. Chissà, su. Chissà se vi varo a che buccia fa calamare. Non lo so, sono troppo impegnato a accompagnare i miei nipoti ancora. Era gira in palestra. Adesso mi metti migliora, voglio provare a calamare, io me la voglio tentare a calamare, a prendere qualche calamaro o qualche simio, capito? Ah no, sono sicuro che il candrugurto è buono. Sì, infatti. Anche il calamaro già, solo vorrei prendere anch'io. L'unica cosa è che quando sono libero di mercoledì o di venerdì? Se sei impegnato come fai? Non puoi fare nulla. No, il martedì e il giovedì sono impegnato la sera a accompagnare i miei nipoti. Ecco cos'è. L'unica cosa che dovrei fare è scendere il mercoledì o il venerdì. La sera, intanto già lo sai che la magna, mangia la sera prima di imbruire. Da voi pensa all'urto, si vede che non tocca, tipo come una dattina che non mangia più. Infatti, no, più che altro a calamari, con i cosi così finti, ce li ho. Ne ha giù 3-4 di pinnaggio. Voi artificiale, io naggio tatanari, quando ti compravo di me, ma armato una trentina. Ma io ne avevo comprato, non lo so quanto naggio veramente. Dovrei avere una decina, ne dovrei avere. Il marcasso, ora so, gli ha mascito gli uzuri. Ma lo sai che non ti piace così, ha giù messo, senza un goggio di chissi. Ha giù messo. Noi siamo trattenuti, gli ha mascito gli uzuri e poi anche le cose, la killer, che è buono come tutta l'ultima generazione, quelle sono uscite adesso. E poi ce n'è un'altra, istushugu, come pare che sia, l'ultima uscita. Però non le ho ancora provate quelle lì. Io di solito usavo gli uzuri e gli ha mascito. No, questi sono fosforescenti, sono. Boh, non l'ho mai visto di chissi. Ma ci ho provato uno di chissi. E mi hanno detto, dice, prova questi a vedere. Ma poi ha giubilato il mio chissi. E mi ha detto, prova questi a vedere. Ma sai cosa ti dico? Là ci ho provato e funziona davvero. E ma c'era quello pure con le batterie, quando toccava l'acqua si illuminavano, lampeggiavano, capito? Quelle ce ne avevo uno, ce ne dovrei avere. E non so se gli ho cambiato la batteria, se ne l'ho tolta, boh. Comunque funzionava bene pure questa. Usavo quelli fosforescenti, usavo la mattina presto, si sia rubugio proprio a collega, si attaccavano in mente nuda. Ma fosforescenti come ti dai illuminare la pila? No, se come li buttavi in acqua li vedevano loro, li vedevano, se non li vedevi perché scendevano a fondo non li vedevi, ma li vedevano loro. No, non l'ho mai vista quella lì. Io avevo quella con la batteria che lanciava e si illuminava. L'ho provato ad Alghero, mi ricordo, e funzionava bene quelle lì. Che quello ho provato? Come quello suo scendente. Non fatti allampare che si attaccavano subito. Vabbè, ma io gli avvaggio pure un affumetto, no? Poi tutti i tipi di bottanari che vai, vogliono un prodotto che tu rubboni. Era tirare un tanno i calamari, non ti preoccupare. Cioè avevo anche le seppie finte, le... una volta mi si è attaccato una spigola, mi si è attaccata. Allora poi mi ha svegliato più nulla. Me lo dico, adesso quelle lì le usavano per prendere i cusi anche, quanti si chiamano, i dentici li prendono con il calamaro fresco. Ma è riuscito viso che a pigliare nulla. Buttavo e qua andavo vicino a... Ma è riuscito viso che a pigliare nulla. I dentici, ha subito una piccata e va a capoccaccia, i dentici. E questo tipo andava a sì, ma dei bambini erano. No, io non ci sono mai riuscito. Ecco cos'è, non mi sono mai riuscito a pigliare nulla. I dentici. L'ho preso, sai con cosa? Pura sardina. No, c'è gente che fa quella pescaricola che ne la traina e li piglia, un bel. Perché a periodi, adesso non lo so se è periodo, adesso dovrebbe essere periodo di cosa, mi dispiego dal mese prossimo, calamari, seppie, capito? Non... un giorno ci voglio scendere, se verdeccio, di mercoledì o di venerdì ci scendo, ma fammo un poco di calamari, fa nadare. E allora che mi dai pure dalla spiaggia, E un coso, un mezzo non l'ha, giù, ormai. Ah, da che lo vicino dalla spiaggia. Già all'imbrunire. Ma sai che ce ne prende un ombretto, al Lazzaretto. Io anch'ero. Al Lazzaretto, invece c'è un ristorante, dice, io pigliano un bel calamari. A chi lei è un bel freddo, e fare la terra. Mi stai dicendo, al Lazzaretto, al Alghero però. Sì, al Lazzaretto, al Alghero, no, per andare alle bombarde. Ah, ti ha giù un pregio, ti ho capito. Cazzo, ci devi c'è la lira. O lì oppure al porticciolo di Alghero, al porticciolo di Fertiglia, cioè, a parte in fuori però, non a parte interna, no, a parte esterna. Ma che fa delle becca in chili? Ma l'anno scorso stavano facendo, non hanno detto niente, poi quest'anno non lo so se si può entrare, però i bisibigliani, Sì, alla punta si stai dicendo tu. Esatto, dove c'è il faro, proprio alla punta, sì. E ma lì... Lì so che una volta hanno detto cosa e non volevano. Sono avvicinati le guardie di coso. Ma che si chiama? Di vigilanza. E l'hanno passato, tipo, c'ho gente che era bifendi, quest'anno non lo so. Anche perché lì a coso, al Maloasi, a parte di fuori, non piglia nulla, nemmeno la camarinella, perché se c'è l'acqua sporca, ma è di me che non tocca, non piglia nulla, ma con la ducata di base. Oh. Aspetta, io andavo in un lungo alla riera, almeno quindi ma vabbè, tu andavi in Gomorra, io come vedendo, non pesca da Gomorra, io pesca, parlando di pesca da terra, capito? Oppure a Balai, dici no, ma a Balai a Palazzaggio su, tutto quanto a buchi. No, Balai no, ormai no, non fa di più. Ci ho provato parecchie volte, ma no. Ho avuto la gioia per riuscire a pigliarle nei calamari. Sai dove? Alla punta dell'entrata del porto, nella punta. Sì, ho capito dove è già. Ne conosco tutte quelle zone lì. No, se te scoprono la capitaneria, c'è a mari. Ma c'è male la protezione di vola, non si può entrare. Vabbè, c'è la recinzione, tu non puoi entrare a pescare. Devi andare a pescare dove non c'è la recinzione. E com'è che a fondo chiuso, la stessa cosa. No, salivo sul muro, andavo sul muro e poi si c'è a parte fuori, andiamo a rocca. Tu capisci, uia, cammina da rita, devi fatto a rimanere lì. No, no. Ce ne sono, c'è lui la torretta che è bello, lo stesso si pescano, solo lui si incaglia un bel ghibi, è un casino, è capito, c'è la battaglia un faro, l'attacchi la batteria e te le codineva. Devi fare buttando e recuperando per i calamari. Allora, c'è un faro. No, anche con gli artificiali, quelli fosforescenti, butti e recuperi, butti e recuperi. Ma busco un faro di chi si di macchina, esci vicci, non ce ne collegi tutto bene. Di quelli a 12, a 12 volte, di busco un booster, con un quello dell'accendino, il booster quello che io ce l'ho, di busco chi si truca a righeggi, ti mando una lampadina che non consumi assai, e te le codineva, poi mi dai la rifugia, vedi. Che cazzo, io non ero gavi e tu ti arrugginito. Se non si riconi bene, no, se tu non si riconi bene, fai tipo una bila subacquea, vera, ma te si cosa. È un faro di liscio rotondo, lo si ricollegge tutto, almeno che non c'è una pila subacquea, capito? La modifichi e te la cudineva. Quando ce la butti, quasi posso dire, a un metro, allora per stare pescando va bene. Sì, quelle piccoline, una piccolina ne ho, che usavo per quando entravo in acqua. Una di quelle c'ho subacque con due pile. Ecco cosa è. E c'è il coso per attaccare con lo spago. Ma no, io una volta l'ho provato col faro, ti trovo del genere, non vedrei Dio, eppure l'ho provato. I calamari se ne parano a terra, ribidi. Non puoi usare dove c'è il posto di ruccia, a me. Se si incaglia, da voi come ti fate da Niro? Se non si incaglia, se fatto bene, non ti preoccupare. Sì, ma il faro rimane troppo grande, rimane. Ecco cosa è. Ma è troppo malo. Si può incagliare pure, quando si direbbe. No, non ti trovo di tempo di chi si fa rimanere, no? Un faro normale, e poi rubo di stirolo intorno, capito? In modo che non si farà tutto a fondo il faro. E poi se no si può una galleggiare, se vuoi. Dovrebbe portare giù almeno cosa ti posso dire, proprio dei 20 centimetri, 30 centimetri, se ne di sotto, compreso, e andare. Perché lui va alla luce, se lui vede la luce, tu devi andare in un posto buio, dove non ci siano luci accese né niente, e non apri i vivi, e poi mi dà la risposta, vedi. C'ho la lampadina da mettere in testa, che funziona bene. Non andava bene, non andava bene, chissà. Ma cosa? A far lui decina che non sei farenni, io sono a punire anche lui. Ho capito, sì. Vabbè, però con quel sistema io volevo fare quella con quel sistema lì. Anche chi ha inventato cosa fa? E quando avevo nel gommone cosa usavo io? Puntavo, che già avevo nel gommone, c'avevo un faretto che puntavo verso giù, verso l'acqua, puntavo lì, e scendevano sotto lì a riviali, e buttavo lì io, senza allontanarsi, pura renza. Sì, ho capito, però questo sistema che stavo dicendo io, con quel faro, va benissimo, perché io te lo sto dicendo che funziona, perché l'avevo già provato. Discorso lì. E come la alimenti per la luce? Con le batterie? Un pacco di batterie? Io ci avevo allora una batteria di macchina, una batteria 12 volt, la caricavo e poi varavo, solo che pisava un trono a farsi radioso. Era giusto, un paio di mesi lo devo portare, però funziona, con i minzi, la metti dentro la busta di nylon, il faro, li lasci, prendi quel filo antifiamma. Non ci ricordi bene il fare, ce lo butti in acqua, capito? Un cannavo. No, io quando usavo il gommone c'avevo la batteria di riserva, mi portavo e pescavo con la batteria, con questa pila grande, ho tolto il capo fuori, la silicone la puntavo verso giù, la puntavo. Era Ruzzi che fazia, c'aveva la batteria, la lampadina da 12 volt ci avevo messo, e fazia una Ruzzi forte, ma forte è. Ma io mi sono aggiunti le cose, la capitaneria mi sono aggiunti. Ma io dico, ma cosa sta facendo lì? Pescando calamari. Ah, c'è un bel metodo che c'ha. Ma la luce è voce. Detto che devi usarla, non si può usare perché non la puoi utilizzare, però devi andare in un posto buio, devi buttare in un posto tranquillo e non bisogna niente. Ma non mi hanno fatto nulla, non mi hanno fatto nulla. Ma via dove ce ne sono andati, mi hanno controllato i documenti. Ma via dove ce ne sono andati. Decenni a tra niente, decenni. Sto pensando a me, Dani. E da dopo a Rugalanaro se vai in posto di roccia, avevo un corpo puro. Anche se non doveva tenere usare di rende, si aggatta la rocca e non metti il corpo. Io sono io a viraggio un corpo. Ma tu che c'è viraggio? Certo. Ma era la prima volta che ero un biglio. Io non aggiungo che è lungo 4 metri, un roccia. Sì, fa 2-4 metri un muro di raggio. No, non lo metto in punta che è in alluminio. No, quello che ho io è buono il manico, è dell'Olympus. Tipo una canna da pesca di grossi, telescopiche, capito? È telescopico così. E poi il coppo è bello, non è di chi si coppi, chi fa di anni prima. Questo che ho io, c'ha la rete proprio buona, non si induppa né nulla. Anche io ho la rete buona, solo che intorno è legato all'alluminio, c'è l'alluminio, c'è. Hai compreso? Ma non si è mai fasciato, perché un metraggio fatto io non mi si è mai fasciato. Si è fasciato la prima volta, poi era già consumo e non mi si è più fasciato. Ma qual è? No. Quella delle abiti al manico. Ho abitato al manico, però io gli ho fatto un'altra cosa, gli ho fatto e gli ho allungato le punte. E c'ha le punte di 10 centimetri, no, non ne c'è più. Ah, ho capito, sì. L'ho rifuzzato, là. L'ho rifuzzato bene e non ne c'è. Ma che una volta gli ho dato una spigola, da grossa. Sì. E mi sono troncato, se non riesce a pigliare la Roma stessi. Ma quello che ho io, ce l'ho un po' di anni, ma i problemi mi hanno dato. E la toglie qualche volta da 3-4 kg, ma è problema. Su coppo ha giubilato un foipo da 10 kg, ha giubilato. Ma è andato per aggiubato a tirarmi un vura. No, ma non mi raggio le altre, trattava per un bilancino, con un cannavo, compreso. Tira per un caramaro, per un bulino, trattava per un bilancino e trattava per un cannavo che sta sopra. A volte quando me lo dimenticavo mi ha tirato dura per la sombra, se sta più male. Sì, ma da voi ha già fatto che da questa maniera che si razzavo direttamente con un garra in mano, si razzavo la polpara. Direttamente con un garra in mano mi razzavo. Ma poi però allora. Ah, ma invece ho tutti i minori che mandano ogni anno, mandano. Ma ce l'ho da canale con Grisci, tutti i beppi da 300 grammi, mezzo chilo, va. Infatti, noi a San Griscino, ma ti so fare una terra, subito ne vado. Per quello che non c'è più niente, capito? Ui, lascia perdere. Che se calamare appena entra i minori di crucine. E allora, noi chi so? Non ne lasciano i faranno, non ne lasciano. Se no, in coso, oh vabbè, io andavo di fronte al porto industriale, andavo. E li prendevo lì, li prendevo. Ero quasi all'entrata e li prendevo lì. Ma lo sai calamare un bene, la giubilati, era la Maddalena. Ha rubato della Maddalena per cucinare i bigli a Nechivi, E forse non sono cercati in Chivi, sono greco di bigli, non sono cercati. Era uno, la buccia, gli hanno pigliato un po' qui, a mano, curarezza a mano, mi cura d'ottanare, a tiro l'uno quasi. Infatti, faccio anche una pesca, 2, 3, alla buccia, e ne razzi, e servono 30 rosicchi. Una canna da pesca, ci sono giornate che io di dicembre, mi ricordo di 3 anni fa, mi ho preso una ventina di calamari. Ma aveva un freddo, ma pure i mari di a girare il mulinello. Ma che devi avere di quanti che si scagini, devi avere. Mi dici che da fuori c'è gomma e dentro ci ho fatti i bottini. Io facevo dalle 5 fino alle 11 e mezza di notte e ne pigliavo, ma ce n'erano pure e adesso non ce n'è più come prima, capito? È cambiato tutto. No, non ce n'è più come prima, no, perché ci sono anche i pescherici che stanno, no, non fuori, ma stanno quasi vicino, stanno, le barchette, si può dire, i guzzi, mi pescini. Quasi non faccio dura, si fanno un po' di caravani e rientrano. Ma che si andare, bisogna i petrolieri, dice. salgono bene in alto, capito? Quei calamari grossi li prendi su. E io non uscivo così, andavo vicino al petroliere, o se no di fronte al porto, almeno un miglio di fronte al porto industriale. Già lo so, ma già si prendono lì, anche al Delfino li prendono lì, capito? Ci sono anche lì, e di bene il sonolo. Che sono loro che praticamente rimane in mezzo al mare, lì si pescano i calamari. Sì, ma il Chivi è sempre pieno di niente, sapete che è sempre pieno di niente il Chivi. Io l'unico posto dove andavo era Cecilia Grugommone, uscivo alle 8 e rientravo verso le 11, rientravo. C'avevo la luce, c'avevo tutto. Nel gommone, quindi a Vuglia ci camminavo. Vabbè, a che tempi erano i dono, allora non viene più come te prima, avanti di sogni. Infatti c'ho un faretto che mettevo per quando rientravo, avevo questo faretto qua, l'accendevo e rientravo, perché a rientrare Rubuccio non fa zia. Non so, a parte ci vuole un gommone grande, non puoi andare con i gommoni da 3 metri, no? Almeno 4,30 ci vuole di gommone, che sia spazioso. Io preferisco più il gommone che la barca non mi piace. C'avevo il gommone a 4 metri, c'avevo. E rientravo, ci uscivo, facevo la mia pescata di calamari e rientravo. Poi ad Abuio gli ho cominciato a girarmi i cattoli e mi raggio venduto. Perché c'è lavoro al gommone, è un casino, devo manutenzione, tutto, motore. Le manutenzioni gliele facevo ogni anno, gliele facevo, ma sempre ce l'avevo in garage, ce l'avevo, quindi a Vuglia lo scendevo io alle 8, ero lì, scendevo e ti scivo, un bel volte arrivavo che una persona che ti salgiano sempre, ti dicendo aiutai, no, per freddo e così, e ti rompiano i cacoli. E non riuscivi a fare quella, un po' di volte dici a ragione, dici. Ho capito, ma è così. Io non ho fatto più nulla, non ho fatto. Vabbè, ci si rompe che non fanno il burro. No, io come migliora voglio provare. Ma giusto per provare un paio d'ore, anche se per cui non mangia, non aggiunta i vivi. C'è anche la tuta termica. Chi sa di voi, che se no ti ammazza lo freddo. E la tuta termica, con chi c'ha, sai bene? Io, l'unica cosa che posso fare è ponermi la tuta subacquea, ma con chi c'ha freddo non hai. No, ma io ce l'avevo comprato un paio d'anni, forse vi raggio più, e quasi 6 anni con la tuta, c'ho la tuta termica, avevo pigliato la buona arma di Mario Forbice, 200 mila franchi. Giusta alla pelle. No, tutta termica, non ti faccio una tuta da piscina, ti prendo il pigiama, azoto, la tuta da ginnastica, ti infili ghiaccia, con i sembari dermici o i guanti dermici, non ne basta un freddo, tranquillo. No, io quando c'era freddo così usavo la tuta subacquea, usavo. E freddo non avevo un giubbotto innanto, che munia, però freddo non avevo. Usavo i calzari come con gli stivali, usavo. Freddo non avevo. Ma noi ti puoi munire la tuta subacquea per pescare i calamari da terra, cioè non andava. Ma si è fatto un paio di voti da giubbotto. Sì, vabbè, ma la bisogna regalare la tuta, indite la gavi la tuta, Ivi. No, ma stavo a casa, me ne agavo per casa, me ne agavavo. già lo so che è quella da casa. Aspetta, non facciamo un filo d'aria. Avevo un casco. più suonavi. Ma che c'ho io tipo un piumone a me. Ne ho capito, no, ho capito, sì. Quindi già gustava un bel gustava allora. Purtroppo, va, ho già vuoi idratare. E già ci sono in vendita. Ho visto la torre sulla 180-200 euro costano le sole tutte. Cosa un bel cosa? Ecco cos'è, che cosa un bel... Ma il problema cos'è, cos'è? Che purtroppo quando vai lì ci vuole quella tuta, che i pantaloni, i jeans, tutta la ginnastica vai freddo, se non vai chissà muore di freddo. Infatti, no, vai chissà muore di freddo, sì. Certo, si deve arrigare. Un giubbotto termico ti devi arrigare, che te faglia, anche se non muore di freddo. Invece ti metti quella addosso, boh, hai risolto il problema, non sai, ne hai tutta unica, ti risolvra, boh, come è venuto di soffrire. Se davvero vuoi pure un giubbotto, ti pone un giubbotto in nata, se no, pure senza giubbotto, proprio non ne basta, tranquillo. E lo mettevo quella, il passamontagna, e il cappuccio con la tuta termica, non mi trava freddo, tranquillo. Ah, te me la cavava in casa, buono. Infatti ci vuole una di quelle, baro freddo. Ah, che infine mi fa di freddo, ci na, all'ombra di... Fa di un freddo che... Però uno di noi che conosco, si è farato, si è rigato il giubbotto, e quelle... Quelle tutte da gozzo, quelle gialle, pantaloni e giacca, ha detto che se la può tornare al giubbotto, ha detto che proprio un freddo. Arrivederci, se ne è andato. Ah, lì se non andare bene, ha detto preso per si risente. No, no, ci vuole tutta, io ho questi vari termici, che tutti vanno rubi di 30, lo sai come dire, caldo caldo rimane, una volta c'è i piedi caldi c'è caldo tutta la persona, ci va rubi di freddi sei molto. Sì, infatti, ci va rubi di freddi sei molto, sì. Puglia, è poco ne soffruio, se te la ciappi che come vedi che ci ho congelati, vai tutta la persona congelata. Infatti, invece a quelle tutte, stai bene, ci metteresti vari termici, no, ti dà pepe, e poi arriva a casa e te ne aggavi, perché lì non conviene neanche tu, Giartala, perché sennò dammi tu già un freddo, o te me la gavi diretta alla macchina. Sai come ti fai, li ha documenti sì, E luce di marito di buona te ne aggavi, casa vetra, ma no, io già riuscivo a tu, Giartala, però la maggior parte delle volte arrivava a casa e me la toglievo a casa, capito? La pulivo e la pendevo. E infatti così. Infatti così. E dobbiamo passare nel 23 di Villa Gio Maria. Oh. Gio Maria, ascoltando ci stai? Sì, Gio Maria deve essere c'è gente. No, dovevo passare al 23 a vedere se era lì. Il problema, dai.